Cari amiche e cari amici, benvenuti a Radio Alma, brussellando martedì ai microfoni. E sono veramente contenta perché questa sera è una puntata estremamente ricca di contenuti e di ospiti e vedrete che anche i contenuti sono estremamente diversi. Saluto Dani M per la parte tecnica Buona serata a tutti. e quindi vi chiedo veramente questa sera di rilassarvi. È martedì, la serata è appena iniziata, la giornata di lavoro è finita, quindi ci dimentichiamo del lavoro e vi invito ad una serata un po' cialtrona, dimenticando proprio veramente ogni pensiero di rilassarvi, perché anche se è vero, siamo una radio, quindi dovremmo parlare anche di musica, lo facciamo molto raramente. E quindi è stato con grande gioia che abbiamo scoperto qualche tempo fa la presenza di una band italiana anche a Bruxelles. Quindi sono molto contenta di dare il benvenuto a Radio Alma e a Bruxellando a Max Busuoli, che è il leader di questo gruppo musicale. Max, benvenuto a Radio Alma. Grazie Mary, è un piacere, è un onore essere qui, oltre che un'emozione, se me lo concedi. Assolutamente, guarda, noi ormai sono da anni che andiamo in onda, però ogni puntata è particolare e diversa. Allora, Max, raccontaci un po' come nasce questa idea della band e raccontaci un po' come nasce l'avventura. L'avventura in realtà per il sottoscritto nasce nel 1979, quando alla tenera età di 13 anni ho fondato il mio primo gruppo, quindi è una storia che affonda le sue radici veramente in un passato remoto. Poi la mia carriera musicale, perché poi in realtà faccio un altro mestiere, la musica è una grande passione, si è sviluppata negli anni, come tutti i giovinastri dell'epoca, cambi band, fai nuove esperienze, vedi gente, fai cose. E diciamo che la prima consacrazione, il palco, me l'ha data nel 1989, quando con la mia band Rhythm and Blues, Larry Screams and the Saxophones, ho calcato le scene del Porretta Soul Festival, il più Certo, famoso soul sì. festival italiano, fondamentalmente, a cui ha suonato, credo, anche Bobo Maroni, che Può so essere. essere tastierista. E niente, nel 91 entro in una nuova band, perché comunque si ruotava, e lì è cambiata la mia vita, perché sono diventato cantante semiprofessionista, seppur nei weekend, con medie di 130-140 concerti l'anno, Complimenti, fino veramente. al 2006, quando il mio lavoro mi ha portato a Bruxelles. A quel punto ho detto: che faccio? Lascio la musica? Non sia mai. Ho lasciato la band, ne ho fondata un'altra, che è appunto il tema di questa sera, cialtrona. In quanto la band sta in Italia, il cantante sta a Bruxelles, non proviamo mai, ci chiamiamo Cialtronight, perché quel che viene, viene. Raccontaci, tu suoni anche uno strumento musicale oppure sei soltanto un vocalist, canti, insomma sei. Sono un pessimo chitarrista, però giusto per stare in spiaggia, quattro accordi. Si imparava a suonare la chitarra per intortare le bambine, fondamentalmente. Quando eri giovane dovevi valorizzarti in qualche modo. Io ero pieno di brufoli e dovevo cercare un modo di conquistare. Per cui dissi: suono la chitarra. Non è servito. Ho detto: faccio il cantante. È migliorato. Beh, la seduzione poi può passare anche attraverso la voce, quindi insomma, una buona voce unita anche ad una chitarrata media probabilmente poteva avere i suoi effetti. Sì. Negli anni la musica, tu hai cominciato veramente nel 79, quindi hai abbracciato comunque un arco temporale abbastanza interessante. A tuo avviso, come è cambiata la musica in questi anni e come sono cambiati secondo te anche i gusti di chi poi si trova a suonare la musica? Guarda, ho un pensiero che ovviamente può essere anche ricollegato alla mia età. Io considero la musica degli anni 70, primissimi 80, probabilmente l'ultimo grande momento estremamente creativo. Nulla tolgo ovviamente agli anni 80, che sono stati il loro momento con una loro dimensione, con le loro caratteristiche e peculiarità. Trovo che i suoni siano cambiati troppo verso un mondo elettronico che ha un po' depauperato la bellezza degli arrangiamenti, ha un po' depauperato i contenuti. Se ragioniamo sugli anni 70, stati uno dei momenti più creativi, con il rock, con la disco music, con tante espressioni e tanti artisti che tuttora sono in grandissima auge. Beh, questo effettivamente era un commento che abbiamo condiviso recentemente con Pino Daniele, che è stato anche nostro ospite al telefono, e proprio con lui ci siamo ritrovati a fare lo stesso tipo di riflessione. E a proposito di musica, Max B, perché sai abbiamo... È un nome d'arte. È un nome d'arte, ma io sono Mari D, Dani M, quindi insomma ci ritroviamo anche con la definizione... Sono in linea con la radio. Tutta fea, come si dice, veramente in linea con Brussellando. Per quanto riguarda invece i generi musicali che voi proponete al vostro pubblico, quali sono i vostri pezzi preferiti, oppure insomma spaziate abbastanza spesso... Come varia la vostra serata tipo, diciamo? Ma, la band è ovviamente una band tematica, perché è bello essere figli di un filone, ti caratterizza. Siamo una band anni 70, quindi i due ambiti su cui ci muoviamo sono la disco music dell'epoca e l'italiano dell'epoca, quello più trash. Perché quello più trash, si sa che la gente... Le canzoni brutte le canta volentieri, è un must. Sono pure meno impegnative, probabilmente. Sì, quindi... e sulle belle parlano del tempo, come va la famiglia, quindi si distraggono. Meglio tenerli impegnati. E quindi il genere della band è anni 70, i costumi della band sono anni 70, per cui svesto i panni del euroburocrate, mi metto la scarpa a zeppa e comincia il concerto. Questa è... Tra l'altro sono molto contenta, perché so che non solo vi esibite nelle varie piazze italiane e molto spesso qui a Bruxelles, ma siete approdati anche alla produzione di un vostro CD che si chiama Disco Cialtrone. Puoi raccontarci qualcosa in più e soprattutto svelarci qualche segreto, insomma anticiparci qualche chicca dal CD? Ma il CD è un live, quindi espressione del nostro essere band live, che è la nostra dimensione migliore in quanto è lo show quello che ci caratterizza, però contiene anche un inedito che incarna lo spirito della band, che è uno spirito estremamente cialtrone, molto, molto spiritoso, molto rilassato. Siamo in pace con noi stessi, sul palco quel che succede succede, nessuno si arrabbia, nessuno se la prende se c'è l'errore, il sorriso è sempre sulle labbra ed è una cosa bellissima. Tra l'altro ho saputo che 2 settimane fa eravate proprio qui a Bruxelles, vi siete esibiti e c'è ancora chi parla di voi, quindi direi che non è soltanto una notte cialtrone, è anche una notte abbastanza movimentata e dinamica. Ma sai, la filosofia è che non è un concerto ma una festa, sono io il primo a divertirmi, però se la gente non è con me mi annoio, quindi fare il semplice esecutore non mi entusiasma. Tra altre cose la band è composta da serissimi professionisti, quindi questo è un valore aggiunto, ecco. Parleremo della band tra un minuto. Io volevo suggerire ai nostri amici all'ascolto un piccolo suggerimento musicale. Cari amiche e cari amici, siete a Brussellando, non vi spaventate, vi avevo annunciato in inizio di trasmissione che avremmo questa sera avuto una puntata un po' diversa e soprattutto rilassatevi. È con noi Max B, il quale mi raccontava a microfoni spenti che questa canzone che avete appena ascoltato avrebbe potuto in un certo modo conquistare anche audience molto più importanti del pubblico italiano, io credo non solo perché il ritmo, come avrete notato, è gradevolissimo. Max, ci racconti qualcosa in più? Ma questa è la canzone che faceva parte di un progetto con la mia precedente band. 91-2006, firmammo un contratto nel 94 col produttore di Eros Ramazzotti per incidere un album, questo è uno dei due album che abbiamo inciso con questo produttore. Nessuno dei due ha mai avuto la dignità di entrare in un negozio, ma non per motivi musicali, ma per motivi extra musicali. Nel caso di questa canzone, che come avete capito è una parodia, è fondamentalmente la canzone del papà della ragazza a cui Jovanotti fa la serenata rap, che si lamenta di averlo sotto le finestre, utilizzando testi e modi di Jovanotti, quindi secondo me è un prodotto geniale, non perché l'abbia fatto noi, ma era bellissimo. Fondamentalmente, quando trovammo l'etichetta che l'avrebbe distribuito e stampato, che era la Flying Record di Napoli, etichetta che lanciò gli Articolo 31, tra le altre, quindi anche buona, nel trattare il budget pubblicitario l'etichetta è fallita, quindi avrei potuto forse essere una rockstar, lo sono stato perché 1800 concerti di carriera non sono pochi, ma come cover band questo. Chissà, sai, con i tempi digitali, insomma, con tutte queste novità... Sono anziano. Vabbè, questo mica... Non è importante, è lo spirito musicale che conta, poi l'età è relativa, sai quanti gruppi ci sono, ultra sessantenni, insomma, quindi da qui a lì. Raccontami ancora, io ho varie curiosità, sulla band, da chi è composta, quanto riesce a vederla, se come discutete tra di voi, perché immagino che la distanza comunque giochi un po' un ruolo. Raccontaci. Guarda, 2006, quindi arrivo a Bruxelles, dopo sei mesi mi mancava la musica, fondo una nuova band, e la nuova band, devo dire, in collaborazione tra le altre cose con una band di Bologna che mi chiese di collaborare con loro. L'idea era una collaborazione su base mensile, quindi una volta al mese prendevo un aereo, andavo a Bologna, facevo un concerto e tornavo a Bruxelles. La band negli anni è evoluta, oggi conta super professionisti, abbiamo il batterista di Pupo, e non sto scherzando, è tornato recentemente da un tour americano con anche Toto Cutugno, quindi veramente un signor batterista. Il bassista è il fonico di Neffa, oltre ad essere un ottimo bassista, e la sezione fiati, udite udite, è la sezione fiati di Celentano. Quindi il gruppo ha due fiati, batteria, basso, chitarra, tastiere e due voci, maschile e femminile. Rispetto agli impegni di ciascuno, riuscite comunque a trovare almeno due dati al mese? Mediamente sì, anche qualcuna in più. Gli accordi avvengono via mail. Quando un professionista non può, ce ne manda un altro. Vabbè, bene o male, così c'è. Che la cosa bella di questa band è che quando saliamo sul palco, spesso e volentieri c'è gente che conosco lì. Questo è bellissimo, non proviamo mai. Arrivi, stringi la mano a un nuovo musicista che ha ricevuto la cassetta, per dirla, e esegue tutto perfettamente. Abbiamo avuto il bassista di Guccini, abbiamo avuto il bassista di Pia, ex produzione di Vasco Rossi, quindi abbiamo avuto. Collabora con noi spesso e volentieri Davide Ghidoni, che è una delle migliori trombe italiane, lavora con Elio le Storie Tese, ha suonato con George Benson, ha suonato in TV, quindi Panariello. Quindi la fortuna è di frequentare un bel panorama musicale. Meno male. Questo, sì. L'estate è alle porte, almeno per chi potrà viverla, qui un po' meno. Che cosa prevede il palinsesto di quest'anno? Il palinsesto di quest'anno prevede il nostro CD live che tu hai presentato prima, con un super inedito dal titolo non casuale, Disco Cialtrone. Quindi questo, che ascolteremo tra qualche minuto. Quindi questo sarà un po' il leitmotiv dell'estate. Dopodiché, tra i concerti di rilievo, se vuoi sapere un po' di tournée, 12 luglio saremo a Gatteo Mare sulla Riviera Romagnola in compagnia di Ivana Spagna, Ivan Cattaneo e Donatella Milani, con la partecipazione di Dora Moroni, se ve la ricordate. Credo collaborasse con Corrado all'epoca. Credo di sì. In un festival di Remember anni 80. E l'altra data molto bella è il 16 agosto, in cui saremo in piazza Primo Maggio a Cattolica, proprio una bellissima piazza in riva al mare, dove già l'anno scorso abbiamo suonato in occasione della Notte Rosa, quindi ritorniamo sul luogo del delitto ed è un grande piacere, perché è una bellissima piazza. Allora, tra notti bianche e notti blu ormai non ricordo più, la Notte Rosa che cos'è? La Notte Rosa è una serata in pieno luglio in cui tutte le località della Riviera Romagnola fanno spettacolo. L'anno scorso è caduta, se non ricordo male, il 5 luglio. Quest'anno è caduta, cadrà credo questo weekend. Ho capito, quindi male. È una cosa squisitamente. Una cosa squisitamente emiliano-romagnola, si chiama Notte Rosa, ma credo che tra le altre cose su www.notterosa.it c'è tutto il programma di tutte le località balneari da nord a sud dell'Emilia-Romagna. È proprio una cosa configurata su tutte le località balneari dell'Emilia-Romagna, che fanno questa serata che dalle 8 alle 3 del mattino vede spettacoli su tutta la costa. Molto bello. Correggimi se sbaglio, è anche una canzone di Umberto Tozzi, Notte Rosa. Notte Rosa era di Umberto Tozzi, anche, giusto. Che fa parte anche del tuo medley, che proponi nel tuo... No, però abbiamo alcuni brani di Umberto Tozzi. Non Notte Rosa, però voglio facciamo dire proponi. Facciamo Tu, Stella Stai, Gloria, comunque degli Evergreen in ogni caso, questo sì. Allora Massimo, noi ti ringraziamo, non so se magari vuoi indirizzare ancora un messaggio, un saluto ai nostri amici all'ascolto. Ma io saluto tutti gli amici all'ascolto, se sono curiosi di sapere qualcosa più di noi, www.cialtronight.it, con night scritto come notte in inglese, quindi non cialtronata ma cialtronight. Li invito a cercarmi su Facebook, Max Cialtronight, questo è, quindi di diventare i nostri follower, perché speriamo magari già a settembre di tornare anche a Bruxelles. Questo è. Però possiamo magari anche dire a coloro i quali che ci ascoltano che se volessero organizzare un concerto, se volessero organizzare delle feste, se volessero animare le proprie serate con un tocco speciale di musica italiana e non, Cialtronight è veramente il gruppo siamo che fa qua. Per voi. Massimo, grazie. Noi ti ringraziamo. E ci lasciamo con uno dei brani, anzi con il tuo brano, con l'inedito del tuo CD, e speriamo di riaverti presto, anzi prestissimo, a Brussellando. Grazie e un saluto a tutti. Ringraziamo anche Max Busoli per essere stato qui con noi questa sera. Come vi dicevo in apertura, è una puntata ricchissima, quindi continuate a stare rilassati sui vostri divani, per quanti dovessero ancora cenare, buona cena, ma mi raccomando, ascoltate Radio Alma e Brussellando. Sono contenta perché riesco a non a pubblicare, ma insomma magari un giorno riuscirò anche a pubblicare, riesco ad intervistare anche Floregina, di cui probabilmente ancora non avrete sentito parlare, ma di cui va sicuro sentirete parlare anche tra qualche tempo, perché è autrice di un racconto davvero interessante e divertente. Qualcuno l'ho anche definito dissacrante, perché racconta di un paradiso che potrebbe sembrare tale, no? Dove tutto è perfetto, dove l'erba non è verde, anzi di più, dove c'è uno stile di vita da tanti sognato. Pensate che il paese nel quale probabilmente c'è un numero di euro milionari, anche se l'euro non è la moneta di riferimento, che è elevatissimo, il numero è quasi impressionante. Probabilmente avrete già capito di quale paese sto parlando, perché parliamo delle avventure tragicomiche di un italiano in Svizzera, che è proprio Floregina. Flo, benvenuta a Radio Alma e a Brussellando. Grazie, buonasera a tutti. Allora, questo tuo libro è stato prima tradotto in inglese e poi in italiano. Come nasce questo libro? Perché tu racconti tante storie che ti sono capitate durante la tua permanenza in Svizzera e hai vissuto a Ginevra per 7 anni. Qual è stato però l'elemento culminante? Che cosa ti ha spinto a scrivere? Perché sai, tutto sommato qui siamo tutti expat, però nessuno di noi ha pensato di scrivere un libro sulle proprie disavventure belghe o brussellesi, o brussellesi o belga, insomma a secondo poi dei vari punti di vista. Che cosa ti ha fatto quindi scrivere? In realtà dopo 5 anni che vivevo in Svizzera ci sono state una serie di vicissitudini e di situazioni che ho vissuto che mi hanno un po' convinto a voler scrivere un libro che un po' raccontasse la cultura locale, perché della Svizzera si sa molto sulle banche, sulla bellezza del paese, sulla tranquillità anche della nazione, eccetera, però non si sanno tutta una serie di informazioni sulla cultura locale, sul modo di vivere, e quindi pensavo fosse importante sia per le persone che hanno voglia di andare a vivere in Svizzera, sia per le persone che hanno voglia proprio di sapere come si vive in questo paese, scrivere una guida che proprio non parlasse soltanto di dove, che ristorante andare oppure quale scuola iscrivere tuo figlio, ma proprio raccontasse la cultura locale. E credo tu ci sia riuscita molto bene, perché riesci a descrivere veramente in uno spazio anche abbastanza limitato, perché il libro va sicuro è come un tascabile, quindi la stessa grandezza del libro vi suggerisce e vi spinge a leggerlo un po' ovunque quando siete in giro per Bruxelles e non solo. Però tu riesci a raccogliere veramente questo spirito elvetico, che è abbastanza davvero dissacrante, perché mi sembra di capire un po' che il fil rouge che si ritrova nel libro e che attraversa un po' tutti i racconti è che prima della dimensione umana ci sia il rispetto della legge. Sì, assolutamente. Questo è quello che un po' mi ha colpito nei primi 5 anni in cui ho vissuto in Svizzera, è proprio che la norma, la regola è in assoluto prioritaria rispetto alla situazione umana. E ci sono state una serie di eventi che mi sono capitati negli anni trascorsi in Svizzera che mi hanno confermato questo, cioè proprio che la regola assolutamente viene sempre prima della situazione particolare o del lato umano. C'è un aspetto che mi incuriosisce: come sono gli italiani in Svizzera? Perché il quadro che tu dipingi mi ha lasciato un po' perplessa, e magari poi leggeremo un estratto dal tuo libro che parla di un napoletano, di un negoziante napoletano. Allora, essendo io campana, credo che questo vada letto, assolutamente, almeno per darvi veramente the flavor, come dicono gli inglesi, delle storie che ci racconta la nostra Flo. Partiamo prima con la domanda e poi capirete meglio leggendo poi ascoltando il brano. Una particolarità secondo me della Svizzera, non credo che ci sia in moltissimi paesi, ma la Svizzera sicuramente lo, l'ho potuto constatare senza ombra di dubbio, che l'italiano nato in Svizzera, cresciuto lì, sia del sud Italia, del nord Italia, non è importante, ma comunque che ha passato tutta la sua vita lì e ha imparato a seguire le regole e a comportarsi veramente come uno svizzero, assolutamente per molti versi è ancora più rigoroso, rigido del cittadino nato e figlio di svizzeri, quindi che ha sempre vissuto in questo paese. È come se fosse il modo per riuscire ad adeguarsi e a farsi accettare in questo paese, essendo ancora più rigido nel seguire le regole, nel comportarsi come un vero cittadino svizzero, del cittadino svizzero che invece è nato lì, è sempre cresciuto lì ed è figlio di locali. Allora, vi descrivo la scena. La protagonista ha noleggiato un DVD e deve restituirlo per le 19. Arriva con qualche minuto di ritardo, perché sapete che può anche capitare che o nel trovare parcheggio, insomma nel trovare il percorso, perché non è che si conoscono tutte le strade di una città nel momento in cui si è appena arrivato in città. Comunque arriva con appena 5 minuti di ritardo. Il negoziante napoletano chiede alla nostra protagonista di pagare anche per il giorno in più, perché ovviamente è stato consegnato con 5 minuti di ritardo. Allora leggiamo l'estratto brevissimamente. Flo dice: presumo che lei stia scherzando. Cerco di sdrammatizzare. Stiamo parlando di soli 5 minuti di ritardo, una cosa ridicola. Poi, visto l'atteggiamento inamovibile del negoziante, non mi trattengo più. Lei non ha nessuna flessibilità e la prego di non dire mai più che è un napoletano. Le persone del sud Italia sono note per la loro flessibilità. Delle sue origini non è rimasto nulla. Io non le do i soldi e la prego, se vuole, chiami pure la polizia. Non metterò mai più piede in questo negozio. Il negoziante non è solo un seguace della svizzeraggine, ma è convertito. Affittare un film in Svizzera è già abbastanza caro. Mi sembra assurdo di dover pagare il doppio per solo 5 minuti di ritardo. Mi sono alterata, il proprietario del negozio è rimasto sconvolto e non ha proferito parola. Sono andata via sbattendo la porta del negozio, non so bene perché, non so bene che cosa mi avesse fatto innervosire a tal punto. La sindrome dell'intolleranza, precisione e rigidità si è impossessata anche del napoletano che vivo in Svizzera. Non gli è rimasto nulla delle sue origini e delle antiche tradizioni della sua terra. In diverse situazioni mi sono resa conto che l'emigrato italiano, spagnolo, greco, cresciuto fin da piccolo nella Confederazione Elvetica, diventa molto più inflessibile dello svizzero doc da generazioni. I primi a stupirti per l'eccessivo rigore sono proprio loro. Esatto. E questo è veramente uno dei racconti anche più leggeri, perché poi ce ne sono altri laddove ci si rende conto che la legge veramente supera addirittura l'immaginazione. Ce n'è un altro episodio che pure mi ha particolarmente stupito, che narra la tua avventura da studente in Svizzera, perché a un certo punto la protagonista Flo è madre di due bambini, per 2 anni decide di occuparsi dei bambini, fin tanto che non si rende conto che forse è arrivato il momento di dare una svolta alla propria vita. Allora, giacché non lavora da un breve periodo, decide di rinfrescare, diremmo noi, le sue conoscenze, di frequentare un MBA. Su 25 studenti, la nostra Fro è l'unica ad essere straniera. Che cosa ci racconti in merito a questa esperienza? Beh, credo che la mia esperienza in Svizzera, sia perché ho studiato per un anno in questo università, ero un master in business law solo per avvocati, e poi perché ho lavorato in una banca svizzera a Losanna, mi ha fatto veramente entrare all'interno della cultura locale, perché se una persona vive a Ginevra e magari lavora alle Nazioni Unite oppure lavora in una società, una multinazionale, ha molte meno occasioni veramente di capire o avere a che fare con la cultura locale. Invece il master all'interno dell'Università di Ginevra oppure un periodo di lavoro all'interno di una banca svizzera dove ho lavorato per 2 anni nel servizio giuridico mi ha veramente dato l'opportunità di conoscere la cultura locale. Beh, quello che mi ha stupito in entrambe le situazioni è un po' la delazione, cioè il controllare quello che fa il tuo collega al lavoro o anche durante il master e denunciare al tuo capo se appunto hai dei comportamenti secondo loro non consoni o non corretti, o se arrivi un attimo in ritardo in ufficio, o se hai, non segui le regole, ma anche le più banali. La delazione è la cosa sicuramente che mi ha più stupito del paese in cui ho vissuto. Qual era la tua reazione da italiana? Quali erano i tuoi sentimenti? Un po', insomma, li capiamo, sono trapelati dalla lettura di quel piccolissimo paragrafo sull'episodio con il negoziante napoletano, ma in generale, vedendolo anche adesso, a tanti anni di distanza, qual è il sentimento che ancora provi? Ma c'è un episodio davvero particolare, ne parlo anche nel libro. Stavo accompagnando mia figlia, che aveva soltanto 3 mesi, dal pediatra, aveva 40 di febbre, ero super agitata, quindi volevo assolutamente andare da questo pediatra. Ginevra non la conoscevo, non conoscevo le strade, poi non ho nessun senso dell'orientamento, per cui ero già persa nella piccolissima Ginevra. A un certo punto trovo la strada del medico, lo chiamo per avvisare che non trovavo un parcheggio, e la segretaria del medico mi dice: se non viene entro 5 minuti il medico non ce la farà a visitare sua figlia. Quindi agitatissima continuo a girare, alla fine trovo un parcheggio, ma per questo parcheggio dovevo fare veramente 8 metri a retromarcia. Mentre faccio la retromarcia, durante la retromarcia, a un certo punto vedo un signore che mi blocca e dico: ah, ma che gentile, forse mi vuole aiutare a parcheggiare. Ma non mi faceva passare. Allora esco dalla macchina e dico: ah, la ringrazio, mi voleva aiutare, sa, mi scusi, io devo correre dal medico, mia figlia ha la febbre molto alta. No, guardi, lei sta andando controsenso, quindi io non la faccio passare. Ma no, la prego, io devo andare dal medico, è soltanto un controsenso brevissimo, sto parcheggiando qua. Ok, lei può parcheggiare, ma deve passare sul mio corpo, perché da qui non mi muovo. Ecco, lì ho avuto un desiderio di violenza che non ho mai. Cioè, non è assolutamente qualcosa che mi capita spesso nella vita, ma siccome non potevo parlare e non c'era modo per discutere, avevo voglia di dargli uno schiaffo. Lo so che non si fa, infatti non l'ho fatto, ho preso la macchina e sono andata via. Però è un vero desiderio di violenza, perché quando le parole non sono sufficienti, quando non c'è modo di discutere, ho avuto questo fortissimo desiderio, che per fortuna non ho mai messo in pratica, però è una cosa che mi è capitata molto raramente nella mia vita. C'è questo episodio che tu racconti quando ti sei iscritta all'università in Svizzera, in cui ti viene richiesto l'originale anche del diploma di maturità. Sì, assolutamente. E in segreteria incontri una studentessa kosovara. Sì. La quale ti racconta la sua avventura. Allora, l'avventura non la leggiamo, ma ce la racconti. Sì. Io trovavo assurdo l'idea, perché io avevo consegnato tutti i documenti per il master, ma avevo la fotocopia del diploma di maturità. Quindi assolutamente il segretario mi dice: se entro 2 settimane non ho l'originale, che non so dov'era, non avevo idea dove l'avevo lasciato, in quale casa, fra tutti i miei spostamenti, se non ho l'originale entro 1 settimana tu non potrai frequentare questo master. Fra l'altro era un master pagato dalle banche svizzere, quindi era veramente una grande opportunità, avevo vinto un concorso, ero entrato in questo gruppo di 25 avvocati, per cui non volevo assolutamente perdere l'occasione. E per cui avevo avuto una discussione con questo segretario, e poi mi chiama questa ragazza che mi dice di non essere nervosa con questo segretario, in fondo mi aveva chiesto soltanto un originale, e mi racconta che addirittura lei era dovuta tornare in Kosovo durante la guerra per prendere i documenti per iscriversi all'università di giurisprudenza, altrimenti non la facevano iscrivere. E durante il ritorno in Kosovo era stata catturata, imprigionata per 3 giorni, e poi era riuscita a scappare, prendere i documenti e ritornare a Ginevra, ed era lo stesso segretario che mi parlava che l'aveva obbligata a questa avventura assurda. Ed io ero ancora più arrabbiata con questo segretario, perché lo trovavo incredibile, e invece lei mi diceva che dovevo accettarla questa cosa, che in qualche modo era un paese rigido, un paese in cui le regole vengono seguite, ma che per lei era normale abituarsi a una mentalità simile e ad aver dovuto affrontare una guerra per avere i suoi documenti in originale. La ragazza poi racconta di aver trovato fortunosamente anche poi l'originale che le avrebbe poi permesso di poter frequentare l'università ginevrina. Ma secondo te, in fondo, ma gli svizzeri sono proprio così? Oppure credi che è un fenomeno soltanto ginevrino, quindi cittadino, o invece è un qualcosa che è uniforme in tutto il paese? No, credo che sia qualcosa di uniforme, che ha ovviamente tanti lati positivi, come molte cose, perché poi seguire le regole in mille circostanze è qualcosa di assolutamente positivo, quindi credo che sia un modo di fare un po' di tutto il paese. Ovviamente se siamo a Zurigo forse sono ancora più rigidi, invece se andiamo a Lugano sono un po' più flessibili, un po' più all'italiana, influenzati dal fatto che sono attaccati all'Italia, e quindi c'è un minimo di influenza su quella zona della Svizzera, della parte italiana, ma se no credo sia un modus vivendi un po' generalizzato che è un po' in tutto il paese. E raccontaci anche un'altra cosa: quando tu hai presentato il libro, la prima volta è uscito in inglese, ed sì. Anzi, colgo anche l'occasione per congratularmi con te, perché so che hai raggiunto le 5.000 copie, quindi hai venduto 5.000 copie del libro, che trovo essere un risultato davvero eccezionale, quindi grazie, congratulazioni. Sì. Grazie. Quali erano le reazioni degli expat, per restare ovviamente in questa comunità internazionale, ma anche degli svizzeri? Allora, gli expat sono stati fantastici, meravigliosi, poi sia a Ginevra, Losanna, Berna, un po' gli expat in tutta la Svizzera, anche perché c'è un sito che ho sul mio libro, paradiseapparently.com, del mio libro inglese, dove molti expat continuano a scrivere, mi hanno scritto in questi 4 anni, ed è bello rileggerli, perché loro in realtà hanno vissuto il mio libro in un modo positivo, nel senso che sono riusciti a rileggersi in qualche modo le cose che erano successe a loro. Poi alla fine sono le stesse che sono successe a me, quindi è stato bello per loro rileggersi nel libro, e soprattutto mi ricordo ancora una californiana, una signora californiana che viveva in Svizzera da qualche anno, che aveva avuto una forte depressione i primi anni per il trasloco, perché non riusciva a capire le differenze culturali del paese, che era contentissima di rileggere le mie storie, perché si riteneva che non è che succedevano soltanto a lei, ma era qualcosa che succedeva in generale. E invece gli svizzeri li dividerei in 2 categorie: lo svizzero, quello internazionale, che parla le lingue, che ha viaggiato molto, che ha vissuto all'estero, ha avuto una reazione molto positiva. Invece lo svizzero che ha sempre solo vissuto in Svizzera, che ritiene che sia il paese migliore al mondo, le osservazioni dell'italiana del sud non sono state molto gradite. E addirittura mi è capitato una volta di andare in una libreria di Ginevra, abbastanza conosciuta, si chiama Paio, che non è solo a Ginevra, è un po' in tutta la Svizzera, è tipo la nostra Feltrinelli in Italia, dove una lettrice del mio libro aveva chiesto di non vendere più il mio libro in questa libreria, quindi voglio dire, arriviamo anche agli eccessi opposti. C'è una domanda che, pensando a quello che ci siamo raccontate finora, mi verrebbe da porti. A Bruxellando, nelle ultime puntate, ci siamo interrogati sull'immigrazione e sull'integrazione. L'integrazione brussellese negli anni è cambiata rispetto a quella che c'era, per esempio, negli anni 50 o 60, anche rispetto agli stessi italiani. Mio padre, che pure è stato in Svizzera per tanti anni, conserva ancora un buon ricordo, probabilmente perché ha fatto meno cose di te, perché credo che le cose capitino proprio perché le facciamo, quindi c'è anche una risposta che credo possa definirsi statisticamente significativa. Però secondo te, in questo paradiso apparente, quanta integrazione c'è, se c'è? Reale, rispetto anche alla stessa Bruxelles. Ah, secondo me la grande differenza fra Ginevra e Bruxelles, io ho vissuto 7 anni a Bruxelles e 7 anni a Ginevra, quindi sono 2 città che conosco bene, credo che la grande differenza sia a Ginevra, per essere accettato ti devi comportare seguendo nel dettaglio le regole locali, e devi esattamente comportarsi in un certo modo come gli svizzeri pretendono che tu faccia. Invece mi sembra che a Bruxelles ci sia un po' più libertà, se ti va di vivere più all'italiana o alla spagnola o alla greca, c'hai più spazio per portare la tua italianità in questa città. Cosa pensano i tuoi figli e tuo marito, che salutiamo, di questa tua passione per la scrittura? Ma li diverte, poi i miei figli adesso incominciano a leggere a leggere il mio libro e si divertono a farlo, quindi addirittura mia figlia incomincia anche a scrivere lei, quindi c'è molta, anche se ha solo 10 anni, quindi è una cosa che li diverte e li piace a entrambi, a tutti. Secondo te è cambiato qualcosa nel tuo modo di approcciarti alle cose da quando sei rientrata da Ginevra a Bruxelles? Sì, mi è capitata una cosa strana quando sono tornata a Bruxelles dopo pochi mesi. Stavo andando a buttare delle bottiglie di plastica che erano in una busta e nell'apposito posto dove appunto si buttano le bottiglie di plastica, e mentre la stavo buttando noto che alla fine di queste bottiglie c'era un piccolo pezzettino di carta che non so come era sfuggito, e vedo accanto a me la mia vicina che mi guarda, e per un attimo ho detto: oddio, che cosa ho fatto? E adesso mi denuncia, adesso mi fa una scenata. E allora dico alla mia vicina, fra l'altro greca, con un francese, col mio fortissimo accento italiano, dico: ah, scusami, mi è caduto questo pezzo di carta fra le bottiglie di plastica. E lei mi guarda e mi dice: e figurati, io nemmeno me ne raccolgo. quindi una tensione che non avevo mai avuto prima, che mi è venuta, sicuramente proviene dai miei anni in Svizzera, no? La paura di non seguire una regola e il vicino che ti denuncia. Tra l'altro c'è un passaggio bellissimo proprio nel tuo romanzo in cui tu fai una riflessione proprio sui poliziotti svizzeri ed anche a questi vicini che eroicamente avrebbero poi durante il giorno una volta fermato i vicini perché non tagliano l'erba così come previsto dal codice svizzero, un'altra volta perché hanno erroneamente abusato di un parcheggio che in realtà non veniva mai usato. Cosa bolle in pentola? Sei ritornata qui a Bruxelles, quindi ti vedo nuovamente energica, stai già scrivendo qualcosa? Ah, mi piacerebbe scrivere un libro su Bruxelles, credo che è una città in cui c'è anche tanto, tanto da raccontare, è una realtà completamente diversa dalla Svizzera, completamente diversa da Ginevra, ma credo che ci sia tanto da raccontare anche su Bruxelles, quindi mi piacerebbe, ci sto già lavorando, scrivere un libro raccontando un po' la cultura belga, tentando di spiegare agli stranieri come un po' funziona il sistema qui, il sistema in Belgio, anche se ho trovato un Belgio diverso da quello che avevo lasciato 7 anni fa, dopo i miei 7 anni in Svizzera, ma sarebbe bello riuscire a parlare nel mio nuovo libro. Tra l'altro Flo ha anche indirizzato un manuale di sopravvivenza per stranieri in Svizzera, quindi per quanti fossero in procinto di andare a Ginevra, veramente ve ne suggerisco la lettura. Il tempo, ahimè, in radio è tiranno e corre via veloce, io sarei felicissima di poter continuare ancora, però, ahimè, il tempo scorre. Vorresti indirizzare un saluto agli ascoltatori di Bruxellando? Certo, grazie per avermi ascoltato fin qua. Mi piacerebbe semplicemente dire che credo che gli occhi di uno straniero che osservano un paese, che sia il Belgio, che sia la Svizzera, un qualsiasi paese straniero, appunto non il proprio, riescono a rilevare delle particolarità di un paese che è sempre interessante leggere, su cui è sempre interessante documentarsi. Questo veramente penso sia un ottimo suggerimento, anche perché ahimè l'Italia resta ancora un paese con uno dei tassi più elevati di migranti in Italia e nel mondo, quindi probabilmente ci saranno ancora tanti italiani che saranno abbagliati da quelle che sono le erbe più verdi e i paradisi apparenti. Quindi vi ricordo Flo Regina, Paradiso apparente, avventure tragicomiche di un'italiana in Svizzera, edito da Le Diomedee. Sentieri Meridiani edizioni, quindi penso che sia poi la collana di Diomedee. E ve ne veramente suggerisco la lettura, potete veramente acquistarlo facilmente online, quindi, anche alla Piola, cioè. E anche alla libreria Piola, quindi Flo, naturalmente noi ti aspettiamo per le avventure di un expat a Bruxelles. grazie mille. Buona serata. Grazie. Eccoci qui, cari amiche e cari amici, è una serata ricchissima e nel mentre aspettiamo il prossimo ospite che invece è in collegamento telefonico, volevo ricordarvi una esposizione che mi sembra essere estremamente interessante, forse perché è uno degli argomenti che amo di più, che sono dedicati allo chat noir. Quanti di voi o quante di voi all'ascolto non sono state rapite da questo bellissimo gatto nero per le vie parigine, che è praticamente il simbolo della Belle Époque parisienne, animata da quelli che erano i proprietari audaci di un tempo come Rodolfo Sali o Salis, che dir si voglia. A volte col francese non so mai questa S, insomma, se bisogna poi pronunciarla con i cognomi oppure no. Questa è un'esposizione estremamente interessante, il cui costo è effettivamente molto molto modesto, che ha luogo presso il museo di Ixelles, un museum van Helsene, e vi darò ulteriori dettagli tra un secondo, perché Clorinda è già al telefono. E Clorinda ha messo in scena uno spettacolo teatrale ispirato da Luigi Pirandello, I giganti della montagna, quindi Ilse, il conte Cotrone, la compagnia e tutti gli scalognati vi aspettano per raccontarvi la loro storia ambientata in una magica villa. Clorinda, benvenuta a Radio Alma, Bruxellando. Ciao, grazie mille di ospitarci questa sera da voi. E sì, stiamo facendo le prove proprio in diretta, siamo in teatro e vi aspettiamo numerosi venerdì e sabato alle ore 8 al Teatro Molière La Bascule. Mettiamo in scena I giganti della montagna di Pirandello, una compagnia di attori bravissimi, italiani, belgi, sia francofoni che fiamminghi. Hanno fatto un lavoro stupendo, veramente sono stati molto molto molto bravi. Lo spettacolo è commovente, educativo, insomma, venite e passerete una bellissima serata, veramente piena di emozioni. Clorinda, c'è un sito internet sul quale reperire anche le informazioni? Certo, allora innanzitutto il sito della Vita è Belga, che è l'associazione culturale che organizza questo spettacolo, che è www.lavitaebelga.eu, e c'è una mail che è info@lavitaebelga.eu dove si possono chiedere informazioni, prenotare i biglietti, ma comunque si può anche venire senza prenotazione, questo non è un problema. Alla fine dello spettacolo ci sarà anche un piccolo buffet per ringraziare il nostro pubblico, e quindi vi aspettiamo numerosi. Tra l'altro, Clorinda, correggimi se sbaglio, è praticamente la vostra rappresentazione di venerdì e di sabato è un po' il risultato del vostro corso di teatro che avete svolto proprio durante il 2012-2013. Sì, assolutamente, nasce da un corso di teatro che ogni anno si tiene il mercoledì sera, sempre organizzato dalla Vita Belga. Il corso è condotto da me, ma loro sono veramente bravi, io li ho chiamati attori perché li considero degli attori, sono bravissimi, hanno fatto un lavoro meraviglioso, si sono impegnati veramente anima e corpo, quindi per me loro sono degli attori e fanno un lavoro che è professionale, anche se chiaramente non lo fanno nella vita, sono arrivati a un ottimo livello, quindi insomma sono fiera di loro e del lavoro che stiamo portando in scena. E quindi questo è anche un modo per ricordare a tutti coloro i quali volessero recitare, che non hanno mai osato recitare o di migliorare la propria dizione, che dal prossimo anno ci saranno anche corsi di dizione italiana e di teatro nuovamente. Certo, sempre organizzati dalla Vita Belga. Clorinda, noi ti ringraziamo, buone prove e soprattutto in bocca al lupo. Grazie. A presto. Buona serata. Venerdì e sabato. Grazie. E allora, buonasera. Come Clorinda annunciava ai microfoni, lo spettacolo sarà in scena venerdì 5, sabato 6 luglio alle ore 20, con due differenti cast, quindi sarà sicuramente piacevole verificare quelle che sono le differenze poi tra un cast e un altro, presso il Teatro Molière, situato in Rue de Pratere, o Pratere, questa sera proprio col francese non ci siamo, numero 55, 1180 Uccle. Dopo lo spettacolo di sabato si festeggerà insieme con un aperitivo ed un buffet. Eravamo alla nostra esposizione sullo chat noir, a volte comunicati stampa, vorrei sapere chi li scrive, perché riescono ad essere ancora più confusionari di quello che invece non dovrebbe essere, perché insomma un comunicato stampa dovrebbe essere preciso, invece così non è. Comunque vi consiglio vivamente di visitare quello che è il sito internet del Museo di Ixelles, museodixelles.be, e ritroverete tutte le informazioni. Volevo anche ricordarvi un altro evento, che è una mostra straordinaria, bellissima, di Corbusier, Le Corbusier e la fotografia. Dovete sapere che sono affezionata all'immagine del Corbusier perché è stato uno dei primi autori, o anzi dei primi artisti di cui noi abbiamo parlato a Bruxellando. Quindi questo per me è veramente un ritorno al passato e sono felice proprio di annunciarvi quindi questa esposizione che avrà luogo ovviamente presso il Museo dell'Architettura, il famoso CIVA o SIVA, che è molto noto e che è proprio Rue de l'Ermitage ad Ixelles. Le tariffe sono modiche, veramente 10 euro per gli adulti, 5 per gli anziani e gli studenti, gratuito per i minori di 18 anni. La mostra avrà luogo fino al prossimo 6 ottobre 2013, quindi c'è ancora del tempo, ma affrettatevi perché ne vale veramente la pena scoprire questo artista straordinario, qual è stato proprio Corbusier, anche attraverso la fotografia. Concludiamo questa sera, questa ricchissima puntata di Bruxellando, con un evento che invece avrà luogo in Italia, ma con una dimensione internazionale estremamente interessante, che sono i mondiali antirazzisti, che si svolgeranno presso il Parco di Bosco Albergati a Castelfranco Emilia a Modena, quindi stasera è veramente una puntata emiliano-romagnola, tra il 3 e il 7 luglio, quindi praticamente cominceranno domani fino alla fine della settimana. Si celebra la 17ª edizione e questa sera noi avremo il piacere di avere un saluto da parte dell'organizzatore Carlo Balestri, che se non sbaglio dovrebbe essere proprio al telefono col nostro Dani M. Carlo, benvenuto a Radio Alma Bruxellando. Ciao, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera, allora, benvenuto. Innanzitutto complimenti per l'iniziativa che trovo estremamente interessante e soprattutto lodevole. Ci racconta come nasce l'idea di un mondiale antirazzismo? Il mondiale ormai è al 17° anno e l'idea originale è nata da mettere insieme le diversità. Siamo partiti proprio con i gruppi dei tifosi calcistici, quelli che venivano considerati dai più come razzisti e xenofobi, li abbiamo messi insieme alle comunità di migranti. Quella è stata l'idea originale, per cui abbiamo messo insieme le diversità. Da là, che è un piccolo nucleo, è stato il nucleo iniziale, è venuto fuori un format in cui lo sport è stato considerato e l'abbiamo utilizzato come strumento molto flessibile per rendere sempre per poter tirare fuori insomma le possibilità di dialogo anche attraverso lo sport, e siamo arrivati alla formula attuale in cui sicuramente ci sono sempre anche dei tifosi di calcio, moltissime comunità di migranti, però è un festival ormai, un laboratorio interculturale aperto a mille altri gruppi, alle associazioni antirazziste, mille altre iniziative, ed ha avuto un grande successo nel corso di anni. Carlo, questo non è soltanto un evento sportivo, non c'è soltanto lo sport e il calcio in particolare, ma ci sono anche tanti altri eventi che accompagnano i mondiali. Ci puoi raccontare qualcosa in merito? Sono mille altri eventi che accompagnano i mondiali, sì, prima di tutto i mondiali sono sono un luogo di aggregazione, perché per 4 giorni migliaia di persone da tutta Europa possono passare, scusate, un momento, sono anche, sto facendo 3 lavori in una volta, perché sono delle cose organizzative da mettere a punto, e per cui c'è gente che arriva dappertutto ed è un momento di aggregazione importante. Ci sono iniziative di carattere culturale, perché incontri di dibattiti tutti i giorni, dal mercoledì alla domenica, abbiamo comunque, lo dedichiamo alla tematica, solitamente il mercoledì, cioè domani sera, è dedicato alla memoria. Il giovedì quest'anno è dedicato al ricordo di un anno del terremoto, del bilancio insomma fatto, per cui a che punto siamo. Il venerdì è legato alla tematica dell'omofobia. Il sabato invece avremo anche la ministra Cécile Kyenge, certo, assolutamente, dedicata alla cittadinanza. la sera poi passiamo alla parte sportiva, alla parte dei concerti, del divertimento, e abbiamo sempre dei gruppi musicali, per cui insomma è un... Ce n'è per tutti i gusti. Benissimo, Carlo, noi ti ringraziamo e ricordiamo ai nostri amici all'ascolto che abbiamo parlato dei mondiali antirazzisti, quindi per tutti i nostri amici all'ascolto dall'Italia o che fossero invece in zona di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, veramente vi invitiamo a visitare o comunque a partecipare attivamente ai mondiali, perché mangerete anche bene, questo ve lo posso assicurare. Carlo, ti ringrazio e ti auguriamo tanto successo. Ah, va bene, sicuramente mangerete anche bene, perché abbiamo dei bar, dei ristoranti e abbiamo dei prezzi eccezionali, questo lo devo. In bocca al lupo a voi. A presto, buona serata. Un saluto, ciao. Buonasera. Ed eccoci qui, mi scuso se in quest'ultimo minuto, ma sono stata rapidissima, telegrafica, ma i tempi in radio, ahimè, sono proprio tiranni. Saluto i nostri Giorgio e Fiordaliso, che non sono qui con noi, ma che lo saranno martedì prossimo. Ringrazio il nostro Daniele in regia. Grazie a voi. Io auguro a tutti delle ottime vacanze, per quanti fossero in vacanza, un buon lavoro per quanti sono invece ancora in ufficio, tanto piano piano, lo sappiamo, l'estate arriverà. Buona settimana a tutti. Noi ringraziamo Mary D, a martedì prossimo. A martedì!